ha detto buono, chi è buono, ma niente è rimasto. Oh, no, no, da giocare qualcosa, ha giocato la rezza, cazzo, mi hanno fatto una busta di cipolle da friggere di quel pesce, di quei serpenti, cazzo, è poco lavoro. E io poco sono buone le cipolle, lo sai che prima le buttavano, adesso le vedo, ma sono buonissime, a fritte sono troppo buone. Ehi, ehi, guarda già questa radio militare americana che è arrivata, guarda, siamo andati a foto, anche una M, ma mi devo allungare il cavo a 24 volts, perché non c'ho cavo compatibile, domani lo prendo, lo fuggiaro, un po' grossetto, allungo il cavo, l'alimentatore da 24 volts, poi te lo faccio sentire con la microcornetta, va anche in AM, AM27, è un semidecametrico, qualcosa del genere. Comunque c'era anche la Firenze 2 Explorer, c'era Roberto con Drago Rosso, c'era lì via Montegrappa Lampada, e sono a togliere il palo e scendere giù l'antenna, anche la quella buona, ho visto, se ne è sceso in tante caso più da solo, perché c'era quel tipo di attacco quando ti stringi, no? Capito? E quindi evidentemente, siccome è stata messa la vaselina dopo che è stato stretto, evidentemente le vibrazioni, se sono mollati i bulloni, vado lo stilo, non è guardato. E c'era lì buttata Roberto. Mi ha detto staccate da qualche giorno. E dice, abita mia moglie adesso, se la piglia il culo, mi ha detto. C'è anche il capo addirittura, le dice 213, piazzato. Claudio, un po' di luce li dovevi dare. Ci sembra bella, ma non si vede bene bene, dai. Ho visto che ci sono dei numeretti 1, 2, 3, cosa so? Ma sono i cari quelli. Oh, c'è scritto. Megahertz. Megahertz, chilo, HHz. Sì, sono le frequenze. Sono rientrato. Se guardi su Facebook, intanto ne appare uno di baracchino vecchio. Ho visto addirittura uno da macchina a valvole, che l'ha tirato fuori un tipo. Poi l'altro giorno c'era uno che dice un stazione base, ha detto, stazione base. Cazzo, con la tasti, tipo diciamo 4-5 tasti, non di più. Mica ci sono baracchini strani, 23 canali, io non me li ricordo più di quelli, di tutti quei modelli così. C'era addirittura, vabbè, uno con frequenze metalosso, c'era, eccetera, eccetera, ma questo periodo tutti qua stanno tenendo baracchini vecchi, chi 23, chi 46, che sono roba vecchia. Anche i poli 6 canali c'era. Perché noi molti baracchini non sono in Italia, erano adesso li stanno togliendo fuori, capito? Tipo Dac, tutti quelli il coso, il tram, siamo magari americani e noi non conoscevamo per quelli. Però questo di Claudio cos'è? Valvolare Claudio. No, a 24 voce ti ho detto, c'è anche il porta, lo puoi portare anche a spalle, c'è l'alimentatore su, la batteria sua esterna, c'è l'antenna esterna, capito? Io l'ho smontato il porta tracolla, se no era un casino, però appoggiarlo sopra là. A 24 voce va, questa è una radio, questa è una marchescia, questa è una radio militare, la radio militare americana, l'esercito dell'aeronautica, non so. Cornetto, adesso domani l'accendo, ma garantita al 100%, perché io l'ho già sentita funzionante questa radio. Chi è che voleva entrare cercando di sovramodulare a Gianni? Vabbè. Io ho sentito anch'io, ho detto mi sembra qualcosa, ma non ho capito cosa abbia detto. C'era il bip. L'ho sentito anch'io. Stavo mettendo a posto questo micro, aspetta un attimo. Guarda un po', uccello sto. Ciao a te, hai sentito. Ciao. Riprendete che sto in ascolto, io devo chiudere questa roba. D'accordo. Avatica. Ehi, è trattalina da allora, non ce l'ha fatta a passare, quindi io non l'ho sentito. Pensavo che era qualche rompipalle. Va bene, avanti già. capito? Bella. Ho fatto vedere che c'è anche altri due. Si è asciugato. No, bella faccia. Già va bene. Adesso la devo provare, domani la provo. C'è l'attacco BNC, BNC PL. Già ce li ho. Domani la proviamo a vedere. Ma c'è ogni voglia di stare a aggiungere capi e capezzo. Ma mattina lo compro la fusata. Smitter tutto quanto c'è. Non l'hai visto in fondo, vabbè, ha fatto la foto così e va a accendere bene le luci. E certo c'è lo Smitter rotondo come il magno, un po' più piccolo in fondo a sinistra. Ma già, c'è una radio vero. E quanti watt dà? 25 watt. Ah, la faccia. Ah, 25 watt dà. 25 watt, non so se ne dà di più da altre parti, ma a me le altre parti non mi interessa, io voglio che funzioni. In AM, vabbè, c'è la microcornetta, quando me l'ha fatta sentire, che me l'ha data, praticamente è una modulazione un po' citofonica, ma comunque una microcornetta, non mi puoi pretendere, no, che non c'è buon pulita, me l'ha da tavola e microfono da tavola, c'è l'attacco della microcornetta, e così deve essere perché è originale, vabbè. Non è un problema, te lo volevo solo far vedere. Avanti a chi? Gianni Roboffetta, ci sei ancora? Ehi, sono tornato. Ciao Natalino, buonasera. Ecco qual era, cos'era quella portante poco fa, siccome tieni tu che stai provando. Qua arrivi a fondo scala comunque. Due bombolo, arrivate fortissimi. E niente, dai, vabbè. Avanti, doppio. Ehi, vabbè. Stavamo parlando qua, ma no, non c'è problema, andava. E allora Claudio, che microfono ci metti lì? Quello ci puoi mettere, la microcornetta devi usare, non devo modulare un kit 27, è che funziona anche il 27, ma lo tengo, questa è una radio, della collezione, fatta con la collezione, già c'è una radio per modulare il 27, no? Senti. Mitico Galaxy Saturn Echo. Se non capivo, no, ormai moduliamo con questa, non abbiamo più niente, solo questa ci è rimasta, tutti gli altri vintage, basta, va bene così. CB Cibillotto. Cibillotto, certo, chiamatemi Cibillotto, tanto io solo quello so fare. C'è anche l'apparecchiatura per le tre altre, fai qui. Non c'ho più niente, venduto tutto, ti ho detto, non faccio manco voi non c'ho niente Gianni, io non sono più, ve lo dico una volta, poi scrivetevela, prendetevela al muro. Claudio, Marti, Notto, Sparviero e UCB, io non sono più l'armatore già, ho venduto tutto, non ho più niente, non voglio fare più niente, solo CB2. E non c'è il 140 e 4 e 3. Beh, cosa giochi HF? Mica non ti sentono veramente gli armatori e ti picchiano. E sono macchine a sintonia continua. E sono per la 27. Ma sono sempre spenti, vedi, sto sempre modulando col baracchino. Non ne ho più io niente da fare attività, Gianni, no, non c'ho accordatore, non c'ho più niente. Non c'ho antenne, e cosa faccio? Ma poi quelli non servono per niente a fare attività materiale, cosa vuoi? Vuoi fare una prova, cioè mi dici, ma poi puoi ascoltare se sto andando bene in 40 metri, io ti ascolto, ma ti dico sì, a posto, e boh, perché senza l'accordatore vai da nessuna parte, non c'ho più niente, solo CP2. Io guardavo 140, andavo un po' da tutte le parti, 80 metri, 40 metri, e sentivo da tutte le parti con la mano, va. Cazzo già, ma l'italiano lo comprendi? Io non è che vado per ascoltare, ma non usami una puta a me, ascoltare ascolto, certo, io sto parlando a trasmettere, tu ascoltavi, io devo trasmettere, ok, ma non posso più trasmettere, perché non ho più né antenne né l'apparecchiatura che mi consente di trasmettere, a ricevere già ricevo io sì, e beh, a ricevere ricevo, le HF almeno le ricevo, le VL1 non c'ho più niente. Cappa. Vabbè, dai. E già va bene anche qua. Qua è il mio mondo. Questo è il mio mondo. Il mondo di Claudio Spagliero. Avanti, motopompa. Io sono Marino, che è 27. Cosa ridere? Sai quante ne ho visto di quegli apparati vecchi, ma gli apparati se l'avevo visto in quel negozietto, quella roba vecchia, roba usata. C'era uno, sembrava la piscina di cane, sembrava la casa, di colore verde era. C'era questo... a mettere le spalle, gli detto, ma manco molto mi ha preso, non aveva, mi sembra, 100 euro. 100 euro? Questa me ne faccio io, 100 euro. 100 euro ti do quella microcornetta, 100 euro. Ma giù mai 100 euro. Ecco, buonasera a tutti. Ne ho visto uno, questo forse andava in FM, non ho detto che sia quello come quello che c'è tu, no. Ne ho visto uno, stile militare, che c'ha una bella piscina rettangolare, fine e fine, hai capito? Tanto tempo fa, a dove c'era la fallamenta Carboni, che voleva 100 euro, lo voleva, gli ho detto, ma neanche ne prendo di quella roba, gli ho detto, sottenga, gli ho detto. Guarda l'occasione, c'è tutto, però non lo voglio, gli ho detto, sottenga. Era un apparato militare di quelli, come si chiamano? Mi deve mettere il nome, perché non hai capito comunque. Di colore verde era. Che questo è il verde militare con il frontalino nero? Beh, c'è del militare. No, questa è bella perché c'è anche la bretella. Capito? Questo c'ha lo zainetto, ci mette lo zainetto, mette a spalle, c'ha la batteria esterna da 24 volts. Sì, se dopo ti passeggio quello mi riconosci, lascialo a casa, ma che vai in campagna, perché uscire con quello si piglia le bambacche. Vabbè, vuol dire se intanto lo proviamo in campagna, a vedere, lo appendo all'albero e le metto l'antenna sua, tu ti dico solo che chi me l'ha dato da Tintino, con questa radio, con l'antenna telescopica sua, attaccato alla tracolla, ok, la batteria esterna mi arrivava a 9 più 10. Buonasera a tutti. Ciao Antonio. Ciao Popolio, buonasera Claudio e a tutti quanti. Aspetta, voglio parlare, sentire un secondo col microfono. Non ho manco toccato, la verità. Lo faccio sentire con questo apparecchio qua, 2 minuti. Aspetta, va, secondo. Ah, l'hai riparato, Antonè. Non l'ho neanche toccato, gli ho cambiato solo la batteria, aspetta un attimo. 2 secondi che te la aggancio. Questo è il Saverta, tieni presente quello. Questo è il Saverta, c'ha il Roger Beat qua. Ok, non c'è problema. Cappa. Buonasera, Cla. Buonasera, mi raccomando, chi c'ha Ventolina fa l'andà sempre, mi. Avanti già. Ciao Antonio, buonasera, ben sentito. Ciao Antonio, ben sentito. Avanti. Papà, dove è sta Ventolina? Alimentatore. Oh, sento una Ventolina sotto. Alimentatore, Ah, non è la Cimbrana, è l'alimentatore. Ehi, l'alimentatore è la Cimbrana. Mi stai imballando lo smitter. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera anche a te, scusami. Dai, aspetta un attimo, dai, se no va a finire il smitter. Fra poco dite c'è la rubacone, aspetta un attimo. Guarda un po', Antonio, com'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cappa. No, non è male, Antonio, non è male, dai. Facciamo così qua. No, va a finire, c'è cosa, magari gli arriva anche un po' di saturazione. Capo, già va bene, già va meno male che non si sente più l'alternata. Va bene, là. Allora, ma dove passa te lo prendi, anche lo vai a tira, mi senti, fai un giro con le bombole. Ma se te lo prendi, lo porti a casa, poi lo provi a casa tua. Io sto provando con quello 4.000 adesso, tieni presente quello, non è il 3.009. Ma intendi? Qual è la portante visa? Aspetta, guarda. ce l'ha. Ce l'hai qua, Antonio Vecchio Fine. Gianni, tu la senti l'alternata quando parla Antonello? Sì, basta, ma c'è. Se basta, raga, non c'è problema. Mi metto il contestatolino e fatto è tutto il problema. Adesso collego l'altro palazzo, così metto il condensatore a massa e così vi tolgo il macchine che passa la raccolta come si chiama. Ti metto il condensatore così scarica direttamente lì tutti i casi che ci sono. Andrà bene, infatti funziona, che sia di meno, ma molto di meno, perché come la prima sembrava molto picco prima. Fischiato. Tutto rodeato, guardalo bene, dai, guardalo bene, non ti preoccupare. Sto toccando i fili qua. C'è qualcosa per il dolore, va bene, ma domani me lo sistemo là. Dopo io un consiglio da amico, Antone. Aspetta, fammi cambiare il corso. La panzina mi devi sentire. No, io non mi permetto di dire niente perché non mi interessa. Lo apri come ho fatto io a quello che mi ha dato Gianni. Hanno fatto un ponticello nel circuito stampato. Toglilo quel ponticello e tu vedrai che il microfono torna perfettamente, guarda. Io non ero disperato perché ne ho già ordinato altre due da fusare, la verità. Però mi rompevo le palle col microfono nuovo, perché quello mi ha dato Gianni, nuovo. Mi innescava in tutte le radio. L'ho aperto, ho tagliato quel ponticello che è stato fatto per farlo amplificare di più, che non serve a nulla. Guarda, io sto usando questo microfono, l'MB+5, Gianni, non te ne sei manco accorto. È uguale agli altri microfoni. Non fischia, non innesca, è normale, e boh. È quello che crea problemi, Antonè. È un rientro di RF nel microfono. Da chi ti ponticelli, da chi ti modifiche fatti. Io gli ho tolte tutte le modifiche e i microfoni sono tornati tutti alla normalità. Prima innescavano, facevano. Tutti perfettamente funzionanti. Prima non sapevo più da chi. Dai, qualcuno glielo dica che vado a mangiare, ok? Non mi interessava più niente. Capite? Questo è quello che ti sto dicendo, che è successo a me. Stacca quel ponticello che hanno fatto e vedrai che il microfono non innesca, non fischia, non ti crea problemi alternata, niente. No, quello lì è un altro microfono, non è MB4. Ok, dai, che devo andare a mangiare, ci sentiamo. Sì, è un palmare, un bel sei palmare questo, capito? Vabbè, a dopo, sono braccia a dopo. Domani già me lo arrangio io il microfono, così almeno togliamo il problema subito. Avanti, pigliate la clac. Ehi, avanti già. Che cane ha portato lei? No, Ilaria l'ha portato, è arrivata poco fa, era ancora vestita e l'ha portato lì. Non ne ho voglia già, fa male nuovo la schiena, oggi poi gli occhi, non ti dico, guarda. Fa male la testa, mi ho preso un momento poco fa. Adesso come male, non ne ho voglia, ho detto, è arrivata a casa poco fa. La trovo, ho detto, fammi la cortesia, porta il cane, poi puoi andare lì, ti piazzi. Vabbè, là. Se non te la senti. Ma non male che c'è l'aria che te lo porta. Io invece qua non c'ho nessuno che me lo porta, qui devo andare lì. Ehi, chi è che ha perso il cane? Avanti. Chi è? Tu fruscio di Giammi, già. No. Manco io. Sì, no, ma non è... A volte sì, già la porta lì, la verità, poverina, solo che esce tardi al lavoro, è tornata poco fa. È andata via un po' prima. Sì, hanno chiuso, è arrivata poco fa, le 7 qualcosa. Papà, la mamma, mi ha visto un po' così, ma ha detto, papà, non ti cambiare, già te lo porto io il cane. Poi se ne va a casa su. Perché non mi sento bene, capito già? Io non l'umidità un po' tutto, io invece stamattina sono andata, invece avevo un cappuccino, ma invece le altre cose cervicali, mi sono dovuto ricoricare per potuto girare, mamma mia. E già, fa vedere la trosi cervicale, c'è mia moglie, batte il piede, anche quello c'ha. Vabbè, cosa vuoi ti dica? Avanti Antonio. qui, sembra ubriaco stamattina, è tutta uscire, cazzo. Aiutati, adesso sono ubriaco. Ho tenuto insieme la tua stessa per cale. Ce l'ho spesso io, eh. Anche perché a me lo fa quando sono qui in stanzetta, che mi accendo la stufa per i fatti miei. Capito? Poi esco fuori in salone e c'è un freddo cane. Adesso mi sistemo un po' tutto, mi sistemo, mi voglio pigliare una di quelle, adesso vediamo un po', una stufa a pelle, adesso vediamo, ho piazzato una di quelle caldaie, come ha pensato Giovanna, a condensazione, e mi agaccio l'uovo i termosifoni. Vediamo un pochettino, devo, perché con la stufetta viene ben male, è peggio, ti crepa la stufetta, sembra così ma ti crepa, ti scalda sì quei 5 minuti, 10 minuti, poi sono timidi a letto, sei fottuto. A parte che ti fa, poi essendoci la stanza calda e poi la notte c'è freddo, ti forma la condensa delle strati più bassi, capito? Dottore, ma non è il riscaldamento? No, l'ho tolto il riscaldamento anche perché la caldaia esterna, quando sono venuto qua a abitare io, l'aveva, a me l'inquina, non mi ha detto niente. E quando sono andato a accendere la caldaia, meno male che non l'ho fatto. Prima l'ho guardata, ho visto cazzo che l'ha messa male e lei non ha detto niente, perché se l'avesse saputo mi avrebbe fatto capire danni. E invece se è andata, è stata zitta, hai capito? Poi per non bisticciare con mamma, gli ho detto ma lascia stare, hai capito? Poi in seguito dice te la metti a posto, cazzo in seguito me la metti a posto, e tu con la caldaia te l'abbiamo fatta. E tu costa intorno, ho detto, minimo 500-600 euro, ho detto non costa, detto no, 300 euro. E dice lascia stare, e quindi l'ho lasciata così. No, se io uso la caldaia esterna, cazzo, sai dove c'esco io? Alcuni c'esco. Quindi ti dovresti fare solo cambiare la caldaia e il riscaldamento andrebbe bene. Sì, se cambia la caldaia, sì, io la sarà cambiata, infatti. Si è messa la caldaia a condensazione, ha preso la bricone, poi ha chiamato la cosa, la figlia di Prospero, se l'ha fatta installare, altri 600 euro, con 1200 euro si è uscita. Sì, Prospero sì, ma il figlio Rafael già è vivo, c'è Rafael e c'è l'altro fratello, adesso ci hanno tutto in mano loro e i televisori non lo fanno più, si stanno a padu tutto, capito? E l'unica cosa che fanno sono caldaie, piatte elettriche, piatte di antenna e basta, cazzate così, i televisori non lo vuole più sapere, manco più bene ne vuole. Un po' di roba di bella! Ciao Luca! E beh, qualcuno. Gianni, padivella! Questo cosa ti ho scritto nel link del corriere? No, cosa hai scritto? Che tu sei qualcuno. Ah, è vero, pure questa. Sì, ma scusa un attimo, che anteggiamo padivella? Tu che padivella sei di Loghi, che sei di tutti i vecchi? Cazzo padivella. Oh, entro al volo, ragazzi, io vi saluto, grazie alla chiacchierata, dai, ci aggiorniamo alle prossime, buona serata a tutti e dividi. Ciao Gianni, ciao Bluffet, ciao, tu devo fare un tampone a te, però visto che ti arriva tu non andava bene. Ciao Bluffet. Ciao Gianni, lo profetta, un abbraccio alle prossime. Ehi Alu, ma se mi fa di bene però, se mi fa bene sto venendo adesso, me lo fai subito. Ma al massimo devo altro seguire il corona della birra. Cazzo, lo zio di padre, no vabbè, io soffro un po' con questi occhi che non uso occhiali, a volte mi metto gli occhiali quelli grossi per vedere qualche fesseria, ma poi comunque li scritti più. Andiamo a buttare quel problema, Lucio. Quello lì si era guarito bene. Guarda, ci soffro pure io un po' di mal di testa, un po' mi può fare la mal di testa, so un po' tuttora, di meno, un po' affaracenato, comunque anche ci soffro. Poi Oh, questi occhiali ormai mi sono preso l'abitudine di tenerli, perché se ho qua sono senza occhiali, non vedo lo Smith, capito? Non vedo, ah, mi metto gli occhiali, anche se mi hanno detto che non devo tenere troppo, e io li tengo anche di più. Ed è quello che ti fa venire mal di testa, quelli sono solo per guardare da vicino, e poi te li fissi. Non so, infatti sono vicino adesso, dai, vabbè, se ti sei tenuto puoi prendere la casa, dai, ciao. Luca Cavalletto. Mi mi rivela caglielo e prendi caccio e dice dai su no poi ciao Lucio, dai ci sentiamo, poi anch'io ce li ho gli occhiali, no, però non li porto spesso e mi sta dando un po' fastidio sto periodo, ma sicuramente è freddo, li ho preso, ma non so, fa male sotto gli occhi e poi mi prende la fronte, capito, non mi prende dietro la cervicale, quindi sicuramente è così. Vabbè, se la sinusi ti intervista. Ci sono gli occhiali che ho visto su internet, questi che sono automatici in pratica, fanno la vicina al calo, e poi c'è quel modello che in pratica c'ha le vittire nei fianchi, non costa intorno ai 50 euro mi sembra la cosa, poi non so se funziona, io ho preso il binocolo, quello là, il monoculare a casa, è una cosa avvicinata col telefonino, quando metti lo zoom sembra che c'hai la casa di Venezia tu, dove c'è come la cubitica, sembra che c'era. C'avevi tempo di lamentarti a chi dove travagliava, ve l'ho detto. E anche io comunque, non sai cos'è, è come ti stai a riposo, tutti i dolori ritornano, capito? Perché io perlomeno ho un'artrosi tutto il corpo, le dita, le piedi, tutti i bagni. Faceva i fanghi e poi tornava che era sereno proprio, ma non gli faceva più male nulla. Mamma lo stesso, mamma però non andava a ghiacciare, andava a Sardara, poi ultimamente andava bene tutti, a San Saturnino lì, e grazie a Dio sempre in piedi, vabbè mamma c'ha lo stoppo rossi, c'ha il bancolino però già reggi, io fra poco che c'è il capatella. Osteoporosi, dopo la menopausa si decalcificano le ossa. Ah, io sono andato dall'asino della Crucca, cazzo, qua, e sono tornato un figurino. Manda pure a me, Natalì, di che c'ho amico Doglio, ma manco non parlo nulla. Dimmelo Natalì che sono culo dell'asino della Crucca, dimmelo a Claudio. Grazie, abili buona, grazie. Faccia via, Luca. Anche c'è un manganello che vai a giocare anche i Maccabi. Questo Luca è qualcuno, non è mio, da te credi. Allora, stavo guardando. Che bella Juventus, ma poi si fanno fuori a cosa? Domando si fanno fuori perché non sanno come pagare i debiti gli Agnelli, 600.000 euro di debito c'ha il figlio, l'altro invece gli altri due se la fregano, sono lì che sono andati, ma quello che c'è la Juve gli ha pochi debiti. Sì, ci fa debiti la Juve, allora ce la lasciare. Antonello, con questo casino che gli stati sono vuoti, tutte le società stanno andando in crisi perché non stanno incassando, capito? Ed è chiaro che anche una società come la Juventus, che è quotata in borsa, che è enorme come capitale rispetto a Inter, a Milan e a tante altre, e se non incassi non è che puoi stare sempre mettendo di tasca, no? Già lo so, infatti se ne vuole andare dove c'è il fratello, quello che ha aperto da poco, cioè che ha fatto quella specie di... c'è l'FCA, capito? Si è pigliato anche con l'altra ditta, vuole andare di lì e guadagnare i soldi e vuole lasciare la Juve, a quanto sembra. Purtroppo i calciatori si fanno pagare un bel. E il problema è quello, dovrebbero diminuire lo stipendio dei calciatori, invece il vizio di lavorato in Italia, sono i più pagati, sono qui, se vengono qui per quello, capito? Ma adesso fa poco vedrai, dopo 2-3 anni, forse 4, se c'è ancora questo casino qua, io dico che i salari cominciano a abbassare parecchio pure, se vogliono giocare, se no se ne vanno in Brasile, in qualche altro posto. No, se non andate di rimpiazzi, tanto a noi non ci tocca niente e non ce ne fotte niente, si arrangiano, capito? Si arrangiano, facciano quello che vogliono, avanti già. Infatti, tanto non si è trovata Musciacca, già ne hanno dei soldi da parte, già ne hanno, queste società grosse ce li hanno i soldi, i piccoli, ecco, in buio, ohia, quanti ce ne sono eserciti che stanno chiudendo? Lascia perdere, ma infatti non si è fatti nulla a noi, che giochino, che facciano quello che le piace, si arrangiano, avanti Antonio. Cioè, se dalle pensioni vogliono togliere 100 euro a tutti, come sarebbe la così hanno detto, dalle pensioni tolgono 100 euro, diciamo che il pensionato tolgono 100 euro alla pensione, a quanto sembra. Caspita. Se non fanno il recovery fund e non si prendono il MES, sono cazzi da cagare noi stesso. Già abbiamo preso i vaccini, adesso prenderemo anche il resto, se non si muove che Conte. Il discorso è quello di fare una cosa veloce, andare lì a prendere i soldi, distribuirli, fare a tutti questi che hanno i negozi e sono chiusi, dopodiché pagare il resto, hai capito? Se li bastano pure. Stiamo andando al cartasfascio. Cosa? Ho detto, stiamo andando al cartasfascio. Sì, vabbè, lascia di andare. Dai ragazzi, io faccio un po' dall'altra parte, ok? Se ci siete ci sentiamo dopo, intanto sarò qua in tanto che mi guardo la partita, va bene? E ora sto chiedendo anche io che adesso porto il cane, ci sentiamo. Ciao Claudio, ciao anche Ali. Ci è uscito a metà già, va bene, dai. Va bene anche con le MB più 5 questo gas, sì. Sì, ho premuto male il tasto, mi è scappato. Sì, va bene. E questo è quello che mi ha dato tu, dai. Va bene, dai, ci sentiamo dopo ragazzi. Vado a mangiare un boccone perché questo mal di testa mi sta uccidendo. Se ci siete ci sentiamo dopo, ciao. Ciao Antonello e anche a tutti quelli che sono in ascolto, ciao. Di una pastiglia, ciao a tutti. L'ho presa già, mi ha preso un momento, ma deve essere ancora, non ha fatto effetto. Momento Antu, ora sei passato la trasporta. Attenante, fammi la voce della signorina. È che non canta così, sa. Tu sei stato a che mi gioca a me, non mi pulisco, si sono tutti andati, Claudio è andato via, Alessio non so se ci sia, manda Alessio, io sto andando a portare il cane, ciao, ci sentiamo, buonasera. Ehi, ciao, già, no, è che stavo mangiando, purtroppo io lo sai che la sera finisco tardi, non si è sentito cosa? Da Muras, Claudio. Sì. Lo volevo sentire per vedere come arrivava. Qua arrivava a Santiago 7:30. Come il fuoco? Non lo so, non l'hanno attaccato forse. Ah, ho capito. Comunque già si sente, siete bene. La madre mi ha detto che l'ha messa a posto. L'hanno piazzata, l'hanno. All'incirca è sempre così, no? Sì, ma l'hanno messa a posto quella che si è rotta. Si è rotta, si è spezzata l'antenna. Sì, ma loro ne avevano un'altra, forse l'ho piazzato un'altra. Sì, quella uguale. Ah, io no, l'ho messa a posto, era già a posto quella. Cappaga. Beh, sì, io... E comunque era tornato, lì. Cappa. Ma l'ha detto con assidio. Era tornato, Tu lo c'hai affamato? No. Tu che cosa c'hai? Sul tetto. Laringoccio. Ah, è laringo, vabbè. Laringo della lema. Cappa, ma c'è un'antenna che è precisa a quella, con radiali lunghi, che è la Super Lem. Ma penso che di struttura sia migliore. E adesso c'è la Blizzard, l'hai vista? Ce l'ha Marco, ce l'ha, però è già... un pochettino... gli anni fa c'ha un radiale di Gurracci. No, non c'ha quella, Marco c'ha la 857, non è la Blizzard è un'altra, è l'ultima che è uscita. Sempre con qualcosa. Vabbè, cosa c'è il radiale? L'alluminio. Dritti così, non lo so, se non penso che c'era l'alluminio. Però dicono tutti che ho una buona antenna. Uno se l'ha piazzata, l'ha messa anche su Facebook, su Forum. Gli ha messo un palo in mani di 12 metri, dice, adesso è pronta a volare. Stavo attento tipo a Gabicuria, il palo 12 metri, cazzo vuole tenuto. Poi li ha messo tirati troppo bassi. Secondo me ce ne volevano due file di tirati, mi ha messo uno e troppo basso pure. Lo so, però non si piazzano le antenne così. Cioè, massimo 6 metri puoi metterla, ma no, già a 12 è pericoloso. C'è chi l'ha messa a 12 e non è mai successo nulla. Lo so, ma sempre un terno all'otto però. Ah, basta che li metti un bel di staffe, che tenga bene a muro un bel po'. Deve tenere. È pesante, quello sì. Sì, ti assomiglia molto, molto, molto alla Super Lem ci assomiglia. Ma sicuramente è migliore di struttura quella lì. Cazzo, guarda, attento 60 euro di antenna. Gianni! Aspetta un attimo, sto rispondendo a un messaggio. Ehi, Bombolo, come mi senti? Forte, chi sei? Forte e chiaro, sono l'uomo del monte, su in alto, Marco Scorpion, e non ce n'è per nessuno, e se no portate a due turni a tutti e non parla più nessuno, cancelliamo la bella cittadina. Ciao a tu. Allora ti faccio schiattà. Eccolo qua. Sto scherzando, so. E ciao, vedi. E ora Marco, che così ti bruci i piedi, mi vai tranquillo, non esagerare, guarda che si può succhiare il contattore anche. Cosa ti bruci? Andai in diretta, cosa? 9 più 35, forte e claro, è molto claro. Ciao, vedi, dai, vediamo un po' se scalda ancora un po', vai, che va freddo questa cosa. Da 9 più 30 col parlato vai a 35 e in picchi positivi. A me come mi stai ricevendo? Sei 9.30 pure qua. Con i potenti mesi di questo toccai, perché era toccai, non ce n'è. Vabbè, la modulazione va bene, microfono da palmo. Capo, una cannonata sì, Marco, ma sì, una cannonata. Ora! La mazza che ti ne varia. Sempre picchi positivi, 9 più 35 circa. Vediamo un po' se c'è qualcun altro. Ma non c'era Gianni, io stavo qua lavorando, ma mi pare che c'era anche lo più runo. Capo, stava rispondendo a un messaggio e poi doveva scendere giù a portare un cane. Ah, è vero che è già ora. Ma è ora anche di andare a mangiare. Vabbè, io qua ero impegnato a fare le cose al computer, ogni tanto sollevavo un po' il volume, ma poi dovevo abbassare, se no non riuscivo a concentrarmi. Vabbè, ero curioso di provare quest'altro bomboncino, dai, come diceva un mio vecchio amico della, della CB, e chissà che non ritorni prima o poi. Ok, ciao Bombolo, ci sentiamo, buona cena. Marco Scorpio, Nuovo del Monte, QRT, oh yeah. Gappa, ma cos'è il massimo di quello Smitter, Marco? No, questo va giù oltre più 60. Gappa, è già un bel segnale già. Ma è forte, stai andando bene, dai, anche con la modulazione va bene. Gappa, Alan 87. Il primo modello con MB più 4, MB più 4, microfono. Va benissimo Antò, va benissimo, regolazioni ottimali, lascia così. Gappa Marco. Adesso conviene lasciare e acchiappare una forchetta in acciaio inox e un coltello. Ho già fatto, forse devi fare tu adesso. Siete già fatte così, nel nord, cioè sono le 8.20, hai già mangiato? È già rubito, dopo che non rientro a travagliare faccio fame. Vabbè, ma che cavolo, che l'hai mangiato, l'hai stesso? Così, no, appena che era pronto. Sono entrato alle 7:30, sai che sia un po' più delle 7:30, dai. Cioè dalle 7:30 sono partito da deposito, poi sono venuto qua e sai che ho mangiato i 40, dai. Capo, no, io appena rientro, anche se ho fatto, oggi sono entrato, ero a Olbia, non sono entrato tardi, ma se rientro tardi che non ce la faccio a mangiare subito, devo per forza aspettare un po' perché sono ancora bisogno di smaltire, devo rilassarmi un po' perché vabbè dopo che guidi ore e poi allora mi viene voglia di cenare. Vabbù, dai, ci sentiamo, magari dopo, portante a due toni, allora gratis a tutti. Ciao Antò. Ciao Marco, ciao, risentiamo, ciao. Ciao, tanto qua ho visto nel monitor, ci sono 73 persone in ascolto, prima o poi magari qualcuno si fa avanti. Ciao a tutti, allora buona cena anche agli ascoltori. Ciao Marco, ci risentiamo. E avanti. Chi è che ce la canta? Avanti! Cari che c'è un mondo da doblò! Tanto ci sentiamo dopo, che tanto c'è la partita, dai! Già sono qua in stanza, adesso vado a cenare, dai! Ok! Ehi, ciao! Ci risentiamo! Poco fa è entrato Marco, ok! Ciao! Ho capito, te parlate in due, cosa hai detto? No, 25, ma con multipli positivi vai a 35. Ciao Marco, non ti ho sentito, mi sono tratto per una partita per il mal di testa. E stanno col Galaxy Saturno, ecco, questo è l'ultimo che è arrivato avanti 10. E va a picchi positivi, da 25 a 35, 10 dB di picchia, capito? Va bene, ottimo. No, non ho toccato niente io, 10 watt sta segnando qua, come il manuale, qui non so. E già lo vedo che è abbastanza spinta, sto andando con l'MBP5, già funziona. Va bene ragazzi, dai, buona cena a tutti, io vado a cenare, poi mi siedo qua a guardarmi un po' di sport. Se c'è qualcuno facciamo la chiacchiera, altrimenti pazienza, dai. Ciao a tutti, buona cena. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao Marco. No, ma chi è che vuole entrare? Avanti. Sì, a tu, non è poco, c'è il buco. Tutti i occhi, ormai ci ho accuditi. Ah, si buona saluta. Ciao Marco, non entra. Chi è che vuole entrare? Tu non ti chiami Marco, ci hanno salutato a Marco. Sì, ma non capisco chi vuole entrare, poco fa la stessa ci è andata una parola, ma non capisco chi sia. Dai, no, a me. Io per tu a cena, poi ascolti. Qualcuno già parlerà, dai. Ciao, ci sentiamo dopo. Ciao. Ora. Andava così. Allora, oggi la prova? Ciao, chi sei? Antonio sono, buonasera. Ciao, buonasera Antonio, mi ascoltato. K, chi sei tu? Antonio Riserva. Tu è Antonio Riserva, buonasera, come va? Copiato. Ho copiato benissimo. Ho detto buonasera Antonio Riserva, come va? Ciao, buonasera, no, Anche io. Siamo un piccolo innesco, Giant. Tu. Chiappa, c'è un piccolo innesco. Come mai? Problemi col microfono? Chiappa. Dimmi. Stavo vedendo una cosa, che tu ti danno fatto pure a noi, ti danno fatto sul coso, multato, la detrasse lei ne era multato. Se tu mi arrivi da casa una bolletta da 1700 e passa euro, questi delinquenti. Una bolletta da 1700 euro? Ehi, mi arrivi da una bolletta del genere, adesso gli hanno multati questi delinquenti qua. Ma appunto, non era possibile. Ah, pare che va via la pizzeria, no? Adesso gli hanno castagnati forte, ma veramente hanno ricevuto un bel po' di denunce. Delinquenti. No, però adesso ci sono solo io. Ma è tu che non riuscivi a uscire, Anto? Sì, ma sono un palmare, cos'è? Ah, e come sta facendo così? Stazionari a posto, guardati gli spezzoni, perché ho un coso che ho già sentito, guardati gli spezzoni. Le batterie a posto sono, non si capisce più niente, è andato proprio in malora. E allora c'è qualcosa, non è possibile. Sì, adesso sì, non ho problema. Ho il problema di massa o il problema di qualcosa. Chiappa. Tu come mi ascolti lì? Bene? Sicuramente c'è un qualcosa, c'è qualcosa che non va. Cappa. Non lo so, magari è un po' senza tratta. Guardate che abbiamo stazionari a posto, poi non c'è problema. Beh, Luca, buonasera. Andiamo, beh, andiamo. Beh, ciuccuccio. Come va tu? Mi. Oggi buccia su Facebook, Milo. Ecco che succedono i bigliani di Baroguro a noi, mi. L'hanno denunciati, gli hanno. L'altro tratto. L'Enel. Ciao, così, ma c'ha furato la corrente? Non la voglio curare, io voglio pagare un Yusho. Poi alla fine la bolletta vera, sai di quant'era? Di 80 euro. No, mi sei considerato che lo ti fregano, bisogna rubare, no? Però a tu. Curati, che la dici? Iuia. Te ne fanno la cannata, e quello sì. Già c'è un metodo comunque, dai. Cappa. Il capo comunque la bolletta vera poi era di 80 euro, Milo, lo sai. perché l'abbiamo vista poi, cioè non ce ne sono corretti, scusati, il contattore è guato, un sacco di cose, ma io gli ho detto gente no, che non fa le letture e ti mandavano i bollette allucinante. E come va c'è il radio, Rise? Ho detto come va c'è il radio? È compresa la radio, non è brutta, brutta, ma non è manco delle migliori. E ora si è pigiurato. Me la mano in peggio se è andato. Tutto a fischio, non si capisce niente. Male Anto, andava meglio prima. Ma che trudiende? Oh, sembra che ci sia qualche rientro, sembra, un qualcosa del genere. E Anto? Esatto, l'altro non è chiara. Spera, adesso fai meglio. Che radio è? E ci si è abbassato un po', sicuramente c'è qualcosa che non va. E beh, direttamente sì. Anche con questo microfono va male. No, adesso va bene. Adesso questo microfono va bene. E adesso tu amplifi, abbassa un po'. Questo non è arrivato, ce l'ha dentro. Comunque c'è la bambina, più forte, dai, vai tu. Cappa, così va bene. Ma come, quando metti la potenza te lo fa. Vedi, adesso sono praticamente tagliati. Se sono lei, quindi sono a metà. Stanno già male. Ah, che umidità me lo fa, magari qualcosa c'è. Sì, ma che si sta migliorando? Bene, A. 1, 2, 3, ora, prova. Già erano di ferma sicuramente. Adesso mi metto la camera dentro, la cioglia, non la mai mattina è caldo. Ma magari adesso, man mano che la usi di bassa. Sì, adesso, con la scambio non è sempre, ma intanto mi hanno sostituito a prescindere. Anda via. Ciao, sicuramente ho i condensatori mezzo scarichi, può essere. Pronto! Sicuramente sì. Ma adesso man mano che va, la usi poi già va bene. Già. Lui tu come mai sei in radio? Io sono appena arrivato, sono da 25, sono arrivato adesso. Sto smontando una TV che mi servono di LED. Siccome mi hanno regalato una TV non sistemata, c'è la mamma, è un Saba a gas. E mi servono di LED. No, serve anche a me. Io ne ho una bella Samsung, ma non ho una Samsung 22, mi pare che sono 20, boh. Non mi ricordo se è 20 o 20, no, comunque diciamo... Quindi vediamo poi a che cosa dai, ma avete dove gira Luca, avete? Io? Eia. Sì, non so più vicino nella zona. Cappa. Come ti arrivo io al monte? Se lo smitta, se non è possibile, a Fombo Scala, vabbè, a Fombo Scala non ci arriva neanche io, neanche a Parigi. Figlia di Dio. Dio e Luca già a voglia. Non è così, guarda, mi fa molto con la portabile, arriva l'ora 35. Cappa. Che apparecchio è 935? Che apparecchio è 935, non mi fa leggendo. Ma non c'è anche problema lo smitter, c'ha. Sicuramente sarà così basso, tirchio. Sì, è proprio secco, capita, cosa ci vuoi fare? Capita quelle radio, quelle apparecchie che nascono tirchi dalla fabbrica. Cappa. Questo già è giusto, sì, a cosa? Padre e figlio. E fine ha fatto quello lì? Ma tutto già venduto? La penna gli è rimasta, dove abita? Dove abitava per caso? Qua vicino? No, al monte abitava. Tutto casa vicino. Sì, allora se ne ha cavato tutto. Sai io che perché lasciare l'antenna sul tetto di lui? Non è mai una sicura, appunto per cui ci smontarla e ciccia. Beh, lo so. Oh, c'è di cibi li hanno lasciate. Molti si sono trasferiti in casa, chi ha venduto la lasciata lì. Però ripeto, non che sia un garrato, ma quando sul tetto sapere gli occhi della sono la luce, anche perché per quel tempo ti vola a testi, Vabbè, bisogna Mantova vanno i 30 anni, se Mantova non succede niente, sia un buon sostegno, se è altro tipo di antenne, non lo so. Io in campagna sono ancora la Mantova, la l'ho acquistata nell'87. Sono i migliori, so. Lo so. Andava bene la stessa, ma anche c'hai un po' anche la stella, andava bene anche quella. Diciamo, anche in quella razza lì vanno bene, le scimmie sono più pulite con materiali più solidi. Adesso invece le scimmie nel palazzo Cambrugge sono un pochettino così, lasciano lo stesso petrolio. Già lo so, già. Lo so. Ma devono stare buone. Cioè, devono essere buone le antenne. No, non così. Ma io ho la cosa, ho. Però è un modello vecchio, ho la Ringo. E infatti va bene. La Ringo ho avuto tanti anni fa. La prima forse che... No, la prima ho avuto la Gran Prix, ma quella da... praticamente un due mesi d'inverno, Sì, fora mare. Si mi manca due mesi. L'ho messa un anno che alla scuola facendo il vento, dopo un mese e mezzo si è spezzata il filo. E avevo quella tutta di metallo, tutta in alluminio, per tagliare gli tappi, però ripeto, dura tanto. Allora l'ho comprato la Ringo. Quindi la Ringo, quando c'era il vento, ho messo una maletta in canale, abbassare solo l'anno, ho comprato quella. No, io sicuramente si è staccato un pezzo. Ma a me non me ne fa di quel di pentili. Ma ti parlo di 30 e passa anni fa, Cappa, ma a me non me ne fa di quel difetto, la verità ti dico. Me l'ha fatto l'altra perché si è staccato un pezzo. Si è staccato il rivetto, quindi lo devo riaggiustare e poi va bene l'antenna. Però di quel difetto lì, quando fate appena di deva, un pochettino sagotta, cioè. Ma poi c'è basta, in effetti non ho mai bruciato nulla a me, capito? Bene, io vi saluto, lui ci sei ancora? Sì, sto ascoltando quel dirette, e se no male le rompo, la sono qua io, stai chiudendo tu? Sì, perché è rimasta la pizza, vi saluto, là. Buon proseguimento, ci sentiamo, grazie per la chiacchierata, ciao a tutti, saluto, ciao. Perché non diciamo che te ne do io un paio di pizze? Fai da bravo. Davvero, tira però piano, mi assudo. Quello con la mortadella. La mortadella? Sì, metto la mortadella, non c'è problema. Fa una mano nell'asso, no? Ah, allora, vamo te la... Ciao, tu buona cena, alla prossima, ciao. Raccomandomi. Ciao, ti abbraccio, ciao. Oh no. Fammi sentire i peli. Aspetta un attimo, tu ti smontano questi vetri. Vai. Che te ne ha trovato il mazzo di murata oggi. Claudio, ci sei? Claudio?